Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori, un ben ritrovati sulle frequenze di Radio Maria in mia compagnia per questo appuntamento ormai consueto, il primo sabato di ogni mese, per tentare di sollevare quel velo di silenzio che così spesso ricopre argomenti tanto decisivi quanto le domande sulla vita, la morte, i cosiddetti novissimi. La prospettiva della escatologia, che sembra così assente nell'odierno dibattito relativamente al futuro dell'uomo e dell'umanità, laddove spesso queste domande vengono ridotte, l'abbiamo già detto, alla prospettiva del progresso economico di una società, piuttosto che alle scoperte della tecnica o della scienza. Laddove invece nel cuore di ogni uomo ci sono domande ben più profonde. Abbiamo visto come sia fondamentale allargare gli orizzonti della speranza di vincere la morte. In questo tempo di pandemia, quanto mai viva è questa speranza in ciascuno di noi, laddove si cercano in modi diversi quelle strade, quelle soluzioni che permetterebbero all'uomo di far fronte a questo dramma ineludibile alla fine per ogni essere vivente, che è proprio la morte. Abbiamo visto la volta scorsa quale differenza faccia ammettere semplicemente di poter resuscitare, come è successo per Lazzaro, sapendo poi di dover morire, oppure poter entrare con Cristo, in Cristo e per Cristo, nella prospettiva della resurrezione. Proprio da qui prendiamo spunto questa sera, cari amici, per entrare nel vivo del tema della vita dopo la morte, ma prima di entrare in questa prospettiva di eternità vedremo proprio questo tema che è la seconda parte dei quattro novissimi, appunto il giudizio. Ma per arrivare lì partiamo da un'affermazione che troviamo per bocca di Gesù nel Vangelo secondo Giovanni capitolo 6 versetto 47: chi crede ha la vita eterna. Perché il problema è proprio di entrare a far parte di questa vita eterna che Gesù ha inaugurato con la sua resurrezione. Quando Gesù afferma questo, chi crede alla vita eterna, non intende dire semplicemente chi crede che c'è una vita dopo la morte vivrà per sempre, ma è come se dicesse chi crede in me, chi si fida di me, chi mi segue, questi avrà la vita eterna. Questo è un aspetto della vita dopo la morte che fino adesso abbiamo forse lasciato un po' sullo sfondo, ma è invece decisivo e non si può dare per acquisito. Conviene approfondirlo. Dopo la morte, infatti, non c'è una sola possibilità per l'uomo. Sappiamo che l'anima è immortale, che sopravviverà alla morte, ma questo non vuol dire che ci sia la stessa possibilità di vita dopo la morte per l'uomo. Vuol dire che dopo la morte c'è un futuro che non può prescindere dalla fede dell'individuo o dalla sua condotta di vita, bensì ci si trova davanti a un'alternativa: la salvezza, che consiste nella vita eterna, nel paradiso, oppure la dannazione, che consiste invece nella morte eterna dell'inferno. Che si tratti di una o dell'altra strada lo si vede nel momento del giudizio, che è proprio il termine che designa la seconda realtà dei novissimi, che già altre volte abbiamo elencato: la morte, il giudizio, l'inferno e il paradiso. Ora, nel Vangelo di Matteo, al capitolo 25, dal versetto 31, troviamo una pagina che ben descrive questa realtà del giudizio che attende l'uomo dopo la morte, quel momento in cui si decide di questa grande alternativa di salvezza o perdizione. Quindi potremmo dire il fatto stesso di possedere un'anima immortale rende certi dell'eternità successiva alla morte, ma non che questa sia per forza di cose salvezza o perdizione. È nel giudizio che si svela la verità del destino eterno dell'uomo. E come dice Gesù, quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si siederà sul trono della sua gloria e saranno riunite davanti a lui tutte le genti ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri e porrà le pecore a destra, i capri alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: venite benedetti dal Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo, perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, Ho avuto sete e mi avete dato da bere. Ero forestiero, mi avete ospitato, nudo, mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato, ti abbiamo dato da bere? Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, nudo e ti abbiamo vestito? E quando ti abbiamo visto ammalato in carcere e siamo venuti a visitarti? Rispondendo, il re dirà loro: In verità vi dico, ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Potremmo fermarci qui perché è una pagina famosissima, ma preferisco andare fino alla fine per far emergere bene i riferimenti che riguardano non tanto la condotta di vita che è bene tenere durante il pellegrinaggio terreno, praticare la carità, quanto piuttosto il duplice e radicalmente opposto destino eterno che attende le anime dopo il giudizio. Prosegue infatti Gesù, poi dirà a quelli alla sua sinistra: Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Questo è un versetto molto importante. Forse la prima volta emerge con tanta chiarezza il giudizio irrevocabile di condanna che viene espresso nei confronti di coloro che stanno alla sua sinistra. Via lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, cioè l'inferno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare. Ho avuto sete, non mi avete dato da bere. Ero forestiero e non mi avete ospitato. Nudo e non mi avete vestito, malato in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato, assetato, forestiero, nudo, malato in carcere e non ti abbiamo assistito? Ma egli risponderà: In verità vi dico, ogni volta che non avete fatto queste cose a uno di questi miei fratelli più piccoli, non l'avete fatto a me. E se ne andranno, questi al supplizio eterno, i giusti alla vita eterna. Ecco, questa è una pagina evangelica che, l'ho detto, conosciamo bene, l'abbiamo letta tante volte, ma sappiamo che la parola di Dio è viva, efficace, discerne i pensieri del cuore, scruta nel profondo l'animo dell'uomo, per cui è bene pensare che ogni volta che ci riaccostiamo col cuore aperto a una pagina evangelica si possa, ecco, trovare qualche cosa di nuovo per la nostra vita. Anche in questo caso vediamo che questa pagina ci riguarda direttamente, personalmente. Anzitutto emergono tre verità fondamentali in questo brano del capitolo 25 di Matteo. Gesù tornerà alla fine del mondo a giudicare gli uomini. Secondo, il criterio di giudizio essenziale sarà la carità vissuta, potremmo dire l'amare con i fatti e non solo con le parole. Tre, dopo il giudizio di Cristo, gli uomini saranno destinati alla vita eterna o alla dannazione senza fine. Come ricorda la fine del brano, supplizio eterno o vita eterna. Si comprende bene dunque che la vita eterna, intesa non come la semplice prosecuzione dell'esistenza dell'anima dopo la morte terrena, ma come la beatitudine, la gioia senza fine del paradiso, non è automaticamente data a tutti gli uomini, benché sia offerta a tutti. Concretamente, la vita eterna, intesa come beatitudine eterna, è goduta solo da quanti si salvano, e questi si salvano praticando la carità e accogliendo l'annuncio del Vangelo. Senza voler entrare nel merito specifico del problema della salvezza dei non credenti, desidero però almeno offrire due riferimenti, no? Per chiarire un po' l'idea, per impostare correttamente la questione. Anzitutto, proprio perché parliamo di salvezza, e non possiamo credere che soltanto i cristiani si salvino, è bene fare riferimento alla Lumen Gentium, che è la costituzione dogmatica sulla Chiesa del Concilio Vaticano II. E in questo testo possiamo leggere al numero 16: Coloro che ignorano il Vangelo di Cristo e la sua Chiesa senza loro colpa, ma cercano sinceramente Dio, e sotto l'influsso della grazia si sforzano di compiere fattivamente la volontà di Dio, conosciuta attraverso il dettame della coscienza, costoro possono conseguire la salvezza. Quindi attenzione perché qui ci sono tre condizioni importanti. Allora, anzitutto, ignorano il Vangelo di Cristo e la Chiesa senza loro colpa. Due, cercano sinceramente Dio, cercano la verità. Tre, seguono quello che è il dettame della coscienza. Se ci sono queste condizioni, costoro possono conseguire la salvezza. Anche a coloro che senza colpa personale non sono ancora arrivati a una conoscenza esplicita di Dio, ma si sforzano, non senza la grazia divina, perché la grazia opera la salvezza in tutti gli uomini, quelli che lo sanno e la cercano e anche quelli che neanche lo sanno. Quelli che cercano, si sforzano di condurre una vita retta, la provvidenza divina non rifiuta gli aiuti necessari alla salvezza. Infatti, tutto ciò che di buono e vero si trova presso di loro, la Chiesa lo considera come una preparazione evangelica, come un dono concesso da colui che illumina ogni uomo perché abbia finalmente la vita. Quindi, quando ci interroghiamo sulla salvezza dei non credenti, ed è giusto farlo perché il tema del giudizio che stiamo affrontando non riguarda il giudizio dei cristiani di fronte al Signore dopo la morte, ma riguarda il giudizio a cui dovrà sottoporsi ogni anima dopo la morte, anche le anime di coloro che non sono cristiani o non sono credenti in Dio. Ecco perché questo numero 16 della Lumen Gentium dice che è possibile salvarsi anche per quelle anime che in vita, senza colpa, hanno ignorato il Vangelo, hanno ignorato la Chiesa e con impegno hanno invece cercato Dio, cioè la verità, e cercato di agire secondo il dettame della coscienza. Noi sappiamo che nella coscienza, che è il sacrario dell'uomo, risuona la voce di Dio e c'è in essa il riflesso, attraverso la legge morale naturale, di quella che è la legge eterna di Dio, questo nella coscienza di ogni uomo. Quindi capiamo che è ragionevole questo criterio. Possono salvarsi anche loro, ma sempre, dice Lumen Gentium, non potendo fare a meno della grazia di Dio. In linea con questa affermazione troviamo anche il famosissimo numero 22 di Gaudium et Spes, sempre del Concilio Vaticano II. Ciò non vale solamente per i cristiani, si parlava della salvezza, ma anche per tutti gli uomini di buona volontà, nel cui cuore lavora invisibilmente la grazia. Cristo, infatti, è morto per tutti. E la vocazione ultima dell'uomo è effettivamente una sola, quella divina. Perciò dobbiamo ritenere che lo Spirito Santo dia a tutti la possibilità di venire a contatto, nel modo che Dio conosce, con il mistero pasquale. È interessante questa affermazione perché si dice chiaramente che la grazia è necessaria per la salvezza di ogni anima. Ma anche coloro che non credono sono salvati per grazia attraverso un lavoro invisibile. È come se lo Spirito Santo offrisse a ciascuno, secondo vie misteriose che Dio solo conosce, la possibilità di salvarsi, purché lo ricordo, come diceva Lumen Gentium, perché poi questi testi vanno letti insieme come tasselli di un grande mosaico, cercando Dio con sincerità. Ecco, questo soltanto per così poter impostare correttamente la questione sulla salvezza dei non cristiani, evitando almeno due errori opposti che oggi vanno per la maggiore: dire che solo i cristiani si salvano, quindi interpretare in senso fondamentalista, letterario, extra ecclesia nulla salus, senza approfondire la cosa, oppure affermare che basta fare un po' di bene e ci si salva, no? Anche se apertamente e coscientemente si rifiutano Cristo e il suo Vangelo, ma noi sappiamo che chi non crede non si può salvare. Ma come si può credere se non si conosce? E aggiungo anche che sulla conoscenza del Vangelo o della Chiesa o della figura di Cristo non sta a noi giudicare fino in fondo. Perché se dovessi basarmi sulla mia testimonianza per dire io il Vangelo l'ho annunciato, quindi quella persona adesso è responsabile, farei un po' il passo più lungo della gamba e pretenderei di conoscere il cuore dell'uomo che soltanto Dio conosce. Però Però possiamo fissare il criterio, ecco, senza pretendere poi di giudicare della sorte di questa o di quell'anima. Ricordo che già il Concilio Tridentino dice espressamente che di nessun'anima possiamo dire con certezza che sia dannata, e questo spetta soltanto a Dio, no? Che conosce il profondo del cuore dell'uomo, ma almeno il criterio l'abbiamo messo in luce. Lo ricordo, non essere colpevoli nell'ignorare Cristo, il suo Vangelo e la sua Chiesa. Cercare sinceramente Dio, che è la verità, seguire con tutto il proprio impegno la legge naturale che si riflette nella propria coscienza. Ora, detto questo, mentre questo capitolo 25 di Matteo, che abbiamo appena esaminato, parla di un giudizio che riguarda tutti gli uomini alla fine dei tempi, verrebbe da chiedersi: ma che cosa succede al momento della mia morte? Cioè, qui abbiamo parlato di un giudizio universale, no? Il Signore che si siede sul trono per giudicare tutti. Ma cosa capita quando muoio io? Cioè, se questo giudizio riguarda la fine dei tempi, la fine del mondo, che cosa succede all'anima quando invece finisce il suo tempo? Ecco, la morte è un punto di arrivo, ricordiamolo, ma non è la fine assoluta della vita umana. Segna la fine dell'esistenza mortale, terrena dell'uomo. È il termine di quel tempo di prova entro il quale ogni individuo, ogni uomo, è chiamato a meritare la salvezza che Cristo offre a tutti. Cristo muore per tutti, la grazia opera in tutti, però non tutti si salvano. Si salva chi accoglie questa grazia, chi accoglie questo dono, chi non respinge questa vita. Dopo questo tempo mortale della vita terrena, non ci si potrà più pentire. E si verrà giudicati sulla base della vita che si è condotta. Quindi il tempo per meritare o demeritare è la vita terrena. Lo ricorda San Paolo, seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5, versetto 10. Tutti, infatti, dice San Paolo, dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo per ricevere ciascuno la ricompensa delle opere compiute quando era nel corpo, sia in bene che in male. Quindi è chiaro che dopo la morte termina il tempo per meritare o demeritare e saremo giudicati proprio su quanto di buono o di cattivo abbiamo compiuto in vita. Il riferimento al tribunale quindi non riguarda soltanto la fine dei tempi, ma la retribuzione che ogni individuo riceve subito dopo la morte, come afferma anche il Catechismo della Chiesa Cattolica al numero 1022. Ogni uomo fin dal momento della sua morte riceve nella sua anima immortale, perché l'anima si è separata dal corpo, quindi è l'anima che è interessata da questa evenienza, la retribuzione eterna, in un giudizio particolare, particolare perché riguarda l'individuo, no? Quindi un essere particolare, specifico, che metterà la vita in rapporto a Cristo, per cui passerà attraverso una purificazione, il purgatorio, o entrerà immediatamente nella beatitudine del cielo, oppure si dannerà immediatamente per sempre. Quindi c'è questa idea dell'immediatamente, un'immediatezza dell'entrare nell'eternità dopo il giudizio particolare che trova riscontro anche nel Vangelo. Pensate alla parabola di Lazzaro e del ricco Epulone, nel capitolo 16 di Luca, quando a un certo punto dice: il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Quindi subito dopo la morte di questo povero, senza aspettare la fine dei tempi, è portato nel seno di Abramo, quello che era il paradiso naturale, il luogo in cui erano ricompensati i giusti. Quindi non si lascia intendere che intercorra del tempo tra la morte del singolo uomo e il giudizio che lo riguarda personalmente. Muore ed è portato. Alcuni autori, dei primi secoli della Chiesa, penso a Giustino, Ireneo, Tertulliano, affermano invece che bisogna aspettare il giudizio finale per avere la separazione definitiva tra giusti e ingiusti. La maggior parte dei padri, però, della Chiesa non è di questo avviso. Ritiene che la retribuzione piena e definitiva sia subito dopo la morte. Questa è la dottrina della Chiesa Cattolica, come riportato nell'articolo 1022 del Catechismo che ho citato sopra. Contro chi sostiene la dilazione della retribuzione, cioè il fatto che fino alla termine della storia del mondo, fino alla fine dei tempi, non ci sarebbe un giudizio definitivo, e sta il fatto che il giudizio finale non sarebbe che la manifestazione pubblica di un atto salvifico che a un livello sostanziale e individuale ha già avuto luogo. Per cui la resurrezione dei morti non cambia in senso stretto la condizione delle persone nei confronti di Dio. Ovviamente resta fermo che la morte non è causa, bensì semplicemente occasione della piena retribuzione. Il fatto di essere pienamente inseriti nel proprio destino eterno, paradiso o inferno o purgatorio come anticamera del paradiso, si evince già dalla Costituzione Benedictus Deus del 1336 di Benedetto XII. E da quel tempo, parliamo di quasi 7 secoli fa, diviene dogma della Chiesa la verità secondo cui tutte queste anime, cito, subito dopo la morte, mox post mortem nel testo originale, sono e saranno con Cristo in cielo. Qui si parla ovviamente delle anime che si sono salvate. Allora, qualcuno dice no, per avere un'entrata nell'eternità bisogna aspettare la fine dei tempi. Si capisce il motivo, perché soltanto con la resurrezione dei corpi si ricostituisce la persona fatta di anima e corpo, ma la maggior parte dei padri della Chiesa ha elaborato un insegnamento omogeneo che poi la Chiesa ha accolto come magistero dal 1336. La retribuzione di vita o di morte eterna, il paradiso, comprensivo dell'anticamera del purgatorio, o l'inferno, sono condizioni, stati e destini che si decidono per l'anima individualmente considerata immediatamente dopo la morte. Allora possiamo dire che esistono due tipi di giudizio, uno subito dopo la morte, uno alla fine dei tempi. Il primo, che ha luogo immediatamente dopo la fine della vita terrena, è detto giudizio particolare, in quanto coinvolge il singolo individuo al momento della morte. Una per una le persone si troveranno di fronte a questo tribunale del Signore. La Scrittura parla però del giudizio sempre in un contesto generale. È vero, se andiamo a leggere i diversi testi, sembra che, per cui uno potrebbe dire, ma allora il giudizio particolare sarebbe una anticipazione è una duplicazione di quello universale. A cosa serve? Oppure si potrebbe dire, ma se c'è il giudizio particolare, in realtà è mancante rispetto a quello universale, perché non si considera a sufficienza il fatto che il peccato possiede anche una dimensione sociale universale. Quindi è giusto che ci sia un giudizio universale, perché è come se si venisse messi a nudo dinanzi all'umanità, presso la quale si è benemeriti o invece colpevoli. No? La ricaduta sociale dei nostri peccati. Ma queste obiezioni forse non sono sufficienti per dire non ha senso una prospettiva di giudizio particolare. Perché? Perché anche il Nuovo Testamento parla del giudizio individuale. Ad esempio, al capitolo 19 di Luca, no? Nella parabola dei talenti, quando si dice fece chiamare i servi cui aveva consegnato il denaro per sapere quanto ciascuno avesse guadagnato. Come dire, si viene chiamati subito dopo la fine della vita per sapere come abbiamo trafficato i talenti che ci sono stati dati, subito. Analogo caso è il povero Lazzaro che muore avendo un destino di salvezza che è opposto a quello del ricco e pulone, capitolo 16 di Luca. O ancora il buon ladrone, Luca 23:43. Al buon ladrone Gesù dice: in verità ti dico, oggi sarai con me in paradiso. Oggi. Ovviamente un oggi che insomma, richiede che Gesù possa risorgere, aprire le porte del paradiso, scendere nel limbo dei patriarchi, ma è un oggi che vuol dire dopo la tua morte, non alla fine dei tempi. Entrambi vengono premiati dunque immediatamente, individualmente, sia Lazzaro che il buon ladrone. Poi, se pensiamo che il giudizio riguarda le opere compiute quando si era nel corpo, come dice San Paolo, 2 Corinzi 5, versetto 10, allora è chiaro che non saremo giudicati come frammenti anonimi di una totalità. Non può esserci soltanto il giudizio universale, come dire, tutti quelli salvati presi come una massa indistinta. Al centro del giudizio sta sempre la persona umana con la sua responsabilità individuale. Mi piace questo termine responsabilità, eh? Mi fa pensare al messaggio recente del 17 aprile 2021 che la regina della pace ha dato tramite Ivan. Questo è tempo della responsabilità. E quante volte la Madonna ci ha detto il tempo della decisione, il tempo della scelta. Ecco, allora uno potrebbe dire, in fondo, ogni individuo porta la sua vita individuale, unica, irripetibile, le sue scelte responsabili di fronte a Dio. E quindi è fondamentale che uno possa considerare il fatto che le persone sono salvate o dannate in base al corso della propria vita individuale. Le obiezioni sulla duplicazione, per cui il giudizio particolare non sarebbe che un'inutile duplicazione singola di quello che poi accadrà alla fine dei tempi col giudizio universale, si risolvono considerando proprio che il giudizio universale, più che un verdetto, un vero e proprio giudizio, è una manifestazione pubblica del giudizio divino. Cioè le persone non sono giudicate due volte. Perché la loro situazione dopo la morte non può più cambiare, ma alla fine dei tempi la loro vita sarà manifestata apertamente davanti a Dio e a tutta l'umanità. È un raddoppiamento apparente, perché gli uomini sono individui, ma sono anche esseri sociali. Allora l'individualità umana è esaltata dal giudizio particolare, perché sei tu dinanzi al Signore. La socialità dell'uomo, l'appartenere alla grande famiglia degli uomini e dell'umanità è invece una dimensione che viene posta in rilievo in modo particolare con il giudizio universale alla fine dei tempi. Non è una semplice ripetizione, anzi, verrebbe da dire che il giudizio vero e proprio è quello particolare, individuale, subito dopo la morte, che non potrà essere cambiato, perché per quanto si possa pregare o ci si possa impegnare e fare, non si merita più dopo la morte. Ma è abbastanza intuibile per quale motivo, perché se si è all'inferno lo si è per sempre, in maniera irrevocabile. Se si è in paradiso, non serve certo meritare, perché si ha già la ricompensa e il premio eterno. Se si è in purgatorio, tutto il bene che si può fare pregando, intercedendo, serve per purificare se stessi ed entrare in un regno che si è già meritato. Non si accresce un merito in purgatorio, si merita un premio che si è già guadagnato, ci si prepara. Abbiamo usato tante volte l'immagine della no, pulizia della veste per la festa che si vuole indossare per andare appunto in cielo, in paradiso. Il giudizio particolare non è però neanche riconducibile a una forma di autogiudizio, no? Come dire, beh, allora se sono cose così diverse, diciamo che il singolo individuo, la singola anima, si giudica da sé dopo la morte, perché la coscienza umana non è la prima sorgente della morale, eh? È un suo riflesso. L'unico che può giudicare gli uomini, punendoli o castigandoli, è infatti Dio stesso. La coscienza umana non è sorgente della moralità. Oggi si pensa al contrario. Oggi si pensa che l'uomo possa seguire la propria coscienza senza guardare se è vera, retta, certa, ben formata, colpevole, incolpevole, ignorante. No, segui la tua coscienza, no? Fai quello che ti senti di fare, va dove ti porta il cuore, per citare un libro di parecchio tempo fa. No, forse più che seguire gli istinti, gli impulsi del cuore, nel senso più sentimentale del termine, è bene pensare che Dio è fonte della moralità. È Dio che traccia il confine tra il bene e il male. Ricordiamo che il peccato originale è stato un atto di sfiducia e disubbidienza causato dal desiderio dei nostri progenitori, Adamo ed Eva, di voler mangiare del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. Cosa vuol dire? La pretesa dell'uomo di definire il bene e il male come se si fosse Dio. È una condizione che è stata individuata lucidamente anche dai filosofi contemporanei. Pensate a quando Sartre, riprendendo Dostoevskij, dice: se Dio non esiste, tutto è permesso, perché capisce che se non c'è Dio che è fonte di valore e di morale, l'uomo fa quello che vuole. Quindi è importante dire che, per quanto sia individuale questo giudizio, non è che uno si condanna da solo, eh. È vero che, essendo immersi nella verità del primo istante dopo la morte, uno capisce da sé che cosa merita, ma è Dio che giudica. Altra differenza riguarda il soggetto che viene giudicato. L'abbiamo già detto, nel giudizio particolare si tratta dell'anima, mentre nel giudizio universale, poiché si ha la resurrezione dei corpi, è dunque una sorta di perfezionamento del giudizio individuale, perché l'intera umanità viene giudicata e con un atto pubblico universale. Perché non è più soltanto la singola anima che riceve il premio o il castigo, bensì la persona intesa come unità inscindibile di anima e di corpo. E questo è un punto importante perché lo vedremo anche per quanto riguarda i premi, il godimento, la felicità, oppure la condanna, la sofferenza, e beh, la differenza grande è sia che nel giudizio particolare è soltanto l'anima interessata. In quello particolare è soltanto l'anima che può godere della beatitudine, che può entrare nella gloria, che si trova invece condannata all'inferno oppure deve ancora purificarsi. Quando avremo il giudizio universale, ovviamente non ci sarà più il purgatorio, perché si entrerà direttamente in paradiso se si è salvi o si andrà all'inferno se si è persi, ma sarà la persona intera ad essere giudicata. Quindi abbiamo un livello di pubblicità, possiamo dire, di socialità, di universalità, che è espressione del giudizio della fine dei tempi, ma anche una diversità relativa al soggetto. La realtà che stiamo trattando del giudizio particolare universale è affermata anche nel credo, nella professione della fede della Chiesa Cattolica, quando si afferma di nuovo il Signore verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. E la nostra fede riconosce che c'è un giudizio finale in Dio e in due momenti: alla mia morte, perché questa morte è la fine della vita, quindi è un giudizio finale rispetto al fatto che la vita terrena è finita. E poi ci sarà un giudizio finale universale alla parusia, cioè con la fine del mondo e col ritorno di Cristo glorioso alla fine dei tempi. Quindi, riassumendo, alla morte individuale c'è un giudizio particolare sulla mia vita, dove particolare non significa parziale, perché anzi sarà un giudizio sulla totalità della mia vita, ma riguarderà la mia particolare esistenza, la mia individualità. Poi alla parusia c'è un giudizio universale che conferma il primo, non può essere difforme. Potremmo dire che il verdetto particolare del primo viene esplicitato a livello universale e comporta la resurrezione della carne, oltre a questo aspetto pubblico che era assente nella prima parte del giudizio. In merito all'idea stessa di giudizio, poi mi sta a cuore precisare che non è un'invenzione della Chiesa, o della Santa Inquisizione, come uno potrebbe essere anche tentato di obiettare. Già l'Antico Testamento, infatti, parla di un giudizio terreno di Dio, che giudica il suo popolo, ma anche il singolo fedele. Un esempio di questo si ritrova, ad esempio, nel profeta Ezechiele, il capitolo 18. Se uno è giusto e osserva il diritto e la giustizia, leggiamo in Ezechiele 18, se non opprime alcuno, restituisce il pegno al debitore, non commette rapina, divide il pane con l'affamato, copre di vesti l'ignudo, se non presta a usura e non esige interesse, desiste dall'iniquità e pronuncia retto giudizio fra un uomo e un altro. Se cammina nei miei decreti, dice il Signore, e osserva le mie leggi, agendo con fedeltà, egli è giusto ed egli vivrà. Parola del Signore Dio. Ma se il malvagio si ritrae da tutti i peccati che ha commessi, e osserva tutti i miei decreti, e agisce con giustizia e rettitudine, egli vivrà, non morirà. Nessuna delle colpe commesse sarà ricordata, ma vivrà per la giustizia che ha praticato. Quindi è possibile vivere se si è giusti, ma è possibile anche vivere se ci si pente della propria condotta iniqua passata. E infatti Ezechiele fa dire al Signore: forse che io ho piacere della morte del malvagio, dice il Signore Dio, o non piuttosto che desista dalla sua condotta e viva? Ma se il giusto si allontana dalla giustizia e commette l'iniquità e agisce secondo tutti gli abomini che l'empio commette, potrà egli vivere? Tutte le opere giuste da lui fatte saranno dimenticate. Questo è importante, quando si è nel peccato grave, quando si agisce empiamente, si perdono anche tutti i meriti del bene compiuto in precedenza. A causa della prevaricazione in cui è caduto e del peccato che ha commesso, egli morirà. Perciò, o Israeliti, io giudicherò ognuno di voi secondo la sua condotta. Oracolo del Signore Dio, convertitevi e vivrete. Ecco quindi che già in Ezechiele c'è una prospettiva che, seppure rimanda un giudizio alla fine dei tempi, è perfettamente, come si può dire, compatibile con la prospettiva individuale del giudizio particolare. E quindi all'immagine del giudizio per ogni singolo individuo subito dopo la morte fa riscontro la rappresentazione di un giorno del giudizio in cui tutti gli uomini insieme verranno giudicati. Ad esempio, possiamo leggere il capitolo primo del profeta Sofonia. È vicino il gran giorno del Signore, è vicino e avanza a grandi passi. Una voce: amaro è il giorno del Signore. Anche un prode lo grida, giorno d'ira quel giorno, giorno di angoscia e di afflizione, giorno di rovina e di sterminio, giorno di tenebre e di caligine, giorno di nubi e di oscurità, giorno di squilli di tromba e di allarme sulle fortezze e sulle torri d'angolo. Metterò gli uomini in angoscia e cammineranno come ciechi perché hanno peccato contro il Signore. Il loro sangue sarà sparso come polvere, le loro viscere come escrementi. È un linguaggio duro, ma parla del giudizio finale che Dio riserva al proprio popolo, distinguendo chi è stato giusto, pio, e chi è stato infedele. Neppure il loro argento, neppure il loro oro potranno salvare. Nel giorno dell'ira del Signore e al fuoco della sua gelosia, tutta la terra sarà consumata, poiché farà improvvisa distruzione di tutti gli abitanti della terra. Qui la prospettiva è molto negativa e pessimistica, perché ovviamente era un ammonimento per un popolo che più volte si era mostrato infedele alla legge di Dio. Poi, se andiamo al Nuovo Testamento, vediamo che Gesù stesso afferma che ci sarà un giudizio. Guardiamo ad esempio il capitolo 25 di Matteo, che già abbiamo citato, e che egli stesso sarà il giudice. Leggiamo nel capitolo 5 di Giovanni: come il Padre risuscita i morti e dà la vita, così anche il Figlio dà la vita a chi vuole. Il Padre infatti non giudica nessuno, ma ha rimesso ogni giudizio al Figlio, perché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Il Padre non giudica nessuno, però il Figlio sì. Chi non onora il Figlio non onora il Padre che lo ha mandato. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Ovviamente si intende il giudizio di condanna. Come infatti il Padre ha la vita in se stesso, così ha concesso al Figlio di avere la vita in se stesso e gli ha dato il potere di giudicare perché è figlio dell'uomo. Ecco perché è il Figlio che giudica. È molto interessante. Perché Gesù giudica e non Dio Padre? Perché Gesù è figlio dell'uomo. Gesù, in quanto Dio fatto uomo, ha la piena facoltà di giudicare. Lasciatemi usare questa espressione, ha quasi più facoltà lui del Padre di giudicare l'uomo. Perché? Perché Gesù si è fatto uomo, incarnandosi, ha assunto la natura umana e quindi verrebbe da dire che nessuno più di Gesù conosce l'uomo che è chiamato a giudicare. Non vi meravigliate di questo, prosegue il Vangelo secondo Giovanni al capitolo 5, perché verrà l'ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce e ne usciranno, quanti fecero il bene per una resurrezione di vita e quanti fecero il male per una resurrezione di condanna. Ecco quindi che quello che succede è proprio di trovare un riferimento chiaro al doppio canale di giudizio, resurrezione di vita, resurrezione di condanna. Io non posso far nulla da me stesso, continua Gesù. Giudico secondo quello che ascolto e il mio giudizio è giusto, perché non cerco la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Ecco che così possiamo dire ben stabilita la prospettiva del doppio giudizio. In breve voglio ancora presentarvi una questione, che è quella relativa alla sorte dei bambini morti senza battesimo. Lo faccio in maniera sintetica perché abbiamo già dedicato un'intera puntata di queste nostre conversazioni al tema, la potete trovare sull'archivio di Radio Maria, ma almeno in breve riprendo l'insegnamento. Anzitutto la Chiesa insegna che il battesimo è necessario per rimettere il peccato originale, questo è il primo punto. Chi non riceve il battesimo resta dunque in una condizione di inimicizia nei confronti di Dio che può pregiudicare la salvezza. Nel caso degli adulti, la soluzione sta nel ricevere il cosiddetto battesimo di desiderio o di sangue. Il battesimo di desiderio è quando un adulto che si è convertito alla fede cristiana e si sta preparando per ricevere i sacramenti della iniziazione cristiana, cioè il battesimo, l'Eucaristia e la Cresima, se dovesse morire prima, si dice che agli occhi di Dio è come se fosse battezzato, perché avrebbe voluto ricevere quel sacramento. Questo è appunto il battesimo di desiderio. Nel caso di un adulto, invece, che si sia convertito alla fede cristiana ma non abbia ancora ricevuto i sacramenti, qualora dovesse venire ucciso, ad esempio, in odio alla fede che già professa, dunque se dovesse morire martire, si dice che riceverebbe in quello stesso istante il battesimo di sangue, in virtù dell'altissima testimonianza di fede che viene resa fino al sacrificio estremo. Ecco, importante, no? Il battesimo è necessario perché venga rimesso il peccato originale, ma il battesimo sacramentale può essere accompagnato dal battesimo di desiderio, se uno non arriva a riceverlo in tempo ma avrebbe voluto, o da quello di sangue, che è il martirio. Ma se un adulto, no, ancora non riceve l'annuncio del Vangelo, cioè se senza colpa rimane senza battesimo, ma il Signore troverà in lui le strade del cuore per comunicargli la grazia necessaria alla salvezza. L'abbiamo già visto questo caso. Se una persona non conosce Gesù e la Chiesa, il Vangelo, ma senza colpa, beh, che cosa può capitare? Può capitare che segua comunque la legge della propria coscienza, che pratichi la carità, che cerchi incessantemente, onestamente Dio e la verità, allora può salvarsi. Ma fatte tutte queste distinzioni, manca ancora una categoria all'appello. Abbiamo visto che c'è chi ha il battesimo sacramentale, c'è chi ha il battesimo di sangue, chi ha il battesimo di desiderio, chi è senza battesimo ma è senza colpa, per cui ha seguito comunque la retta via e ha accolto la grazia di Gesù in altra maniera. E cosa succede nel caso di un bambino morto senza battesimo? Perché muore prima di nascere o con pochi mesi di vita o persino un po' più grande, ma magari non battezzato dai suoi genitori? Questa è una domanda importante, soprattutto oggi, quando si vede che i giovani non soltanto difettano dei sacramenti della cresima, no? Che è un po' il sacramento dell'addio, per quando si riceve la cresima, poi non si fa più vita parrocchiale, vita di comunità. Non solo magari mancano della comunione perché hanno fatto qualche messa, poi hanno smesso di andare giovanissimi, ma addirittura mancano del battesimo. E quindi è una domanda importante. La Commissione Teologica Internazionale ha elaborato un documento per rispondere a questo quesito intitolato La speranza della salvezza per i bambini che muoiono senza battesimo del 2007. E in questo documento leggiamo: è noto che l'insegnamento tradizionale ricorreva alla teoria del limbo, inteso come stato in cui le anime dei bambini che muoiono senza battesimo non meritano il premio della visione beatifica a causa del peccato originale, ma non subiscono nessuna punizione perché, d'altra parte, non hanno commesso peccati personali. Beh, è evidente, no? C'è un bambino che muore senza aver ricevuto il battesimo, sì, non ha il merito del battesimo, merito donato gratuitamente da Dio, per cui non è risanata la ferita del peccato originale, ma neppure ha colpe personali. Questa teoria, quella del limbo, elaborata da teologi a partire dal Medioevo, però non è mai entrata nelle definizioni dogmatiche del Magistero, anche se lo stesso Magistero l'ha menzionata nel suo insegnamento fino al Concilio Vaticano II. Essa è quindi rimasta come un'ipotesi teologica possibile. Tuttavia, Nel Catechismo della Chiesa Cattolica del 1992 la teoria del limbo non viene menzionata ed è invece insegnato che, quanto ai bambini morti senza battesimo, la Chiesa non può che affidarli alla misericordia di Dio, come appunto fa nel rito specifico dei funerali per loro. C'è un rito apposta per il funerale dei bambini morti senza battesimo. Il principio che Dio vuole la salvezza di tutti gli esseri umani consente di sperare che vi sia una via di salvezza anche per i bambini morti senza battesimo. Ecco, la via è quella della speranza. Il documento ovviamente meriterebbe di essere letto tutto, commentato nella sua integralità. Io lo raccomando, lo trovate su internet. Lo raccomando a chi ha avuto così la sventura di perdere un bambino con un aborto spontaneo, anche magari all'inizio della gravidanza, ma tale da poter dire io su questa vita ci contavo, no? Dove potrò trovare consolazione? Cosa sarà di questa vita che non ha potuto essere ripulita dal peccato originale con il battesimo? Ecco, questo è un tema molto, molto bello, no? Ma quello che qui mi preme sottolineare e che vorrei che fosse proprio una parola di consolazione per tutti i genitori che sono in ansia, pensando al destino eterno che può attendere i loro figli morti senza battesimo, è che la speranza di cui si parla non è quella generica di cui si dice oggi, ma speriamo, ma possiede una grande forza che ci porta ad affermare, e qui dobbiamo fare riferimento alla volontà salvifica universale di Dio, quella che è espressa in prima lettera Timoteo 2,4. Dio vuole che tutti gli uomini si salvino e giungano alla conoscenza della verità. È alla luce di questa volontà salvifica universale che dobbiamo credere che questi bambini siano nella gloria del paradiso, dove attendono di poter incontrare un giorno i loro genitori. E questo vale ancora di più per tutti i bambini che vengono uccisi ogni anno con l'aborto, ogni anno più di 50 milioni di vittime e oltre 1 miliardo da quando l'aborto è stato legalizzato. Ma come si potrebbe credere che queste vittime innocenti, questi martiri, oggi da più parti si usa proprio questa dizione, visto che sono uccisi in odio alla vita, al Signore della vita che è Dio, in modo esplicito o implicito che sia, come si può pensare che questi non siano già al cospetto del Padre Celeste? Ma è evidente che questa prospettiva richiede di usare le parole con attenzione. Se il battesimo è necessario, se è necessario in ordine assoluto e la grazia, perché pensare che Dio debba salvare solo chi è stato battezzato o sacramentalmente o col battesimo di desiderio o col battesimo di sangue o una persona adulta che ha vissuto però in una maniera moralmente onesta, anche se non credente, ma perché invece non ammettere che la grazia di Dio, come ricordava anche Gaudium et Spes al numero 22, possa giungere al cuore di ogni persona in modo misterioso per vie solo a Dio note. Ecco, a questo punto torniamo, e con questo concluderemo la conversazione di questa sera, a chi giudica a livello particolare e universale è Cristo. Beh, di Cristo abbiamo già detto per quanto riguarda il giudizio universale, perché essendo pienamente uomo, oltre che pienamente Dio, ha titolo per giudicare, ma in realtà giudica anche nel livello particolare. Interessante notare che colui che è stato condannato da un tribunale umano, ricordiamo quando Pilato, no, si rivolge a Gesù che gli dice: "Non mi parli, non sei col potere di metterti in libertà, il potere di metterti in croce". Ecco, colui che è stato condannato da un tribunale umano, in un processo farsa, ingiusto, ecco, questo è quello che giudicherà l'umanità. E a questo punto possiamo fissare alcune verità relative al giudizio che segue immediatamente la morte di ogni individuo e che poi si ripropone su scala universale alla fine dei tempi. Sono alcuni punti che riassumono quanto detto questa sera. Anzitutto c'è un profondo legame tra giudizio e verità, poiché si viene giudicati sulla base di quella che è stata davvero la nostra vita, al di là di tutte le apparenze o menzogne che possono trarre in inganno magari i nostri simili, ma che agli occhi di Dio sono sempre evidenti come tali, quindi è un giudizio di verità. 2. Il giudizio è l'espressione della mia relazione personale con Cristo, perché dice quanto durante la mia vita io l'ho riconosciuto, l'ho amato, l'ho seguito, o al contrario quanto l'ho tradito o rifiutato. 3. Il giudizio interessa a tutti gli uomini, secondo la volontà salvifica di Dio, che come ricordavo prima lettera a Timoteo, capitolo 2, versetto 4, Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e arrivino alla conoscenza della verità, ma altresì questo giudizio avviene nel rispetto della libertà e responsabilità dell'uomo. Dio pronuncia un giudizio che di fatto è la conseguenza dell'agire libero dell'uomo. Il criterio di giudizio, quarto punto, l'abbiamo già visto commentando Matteo 25, è la carità. Ogni volta che avete fatto una di queste cose. 5. Lo scopo del giudizio universale è ottenere una verità che sia definitiva e pubblica quando vengono separati i capri e le pecore. 6. Solo Dio giudica. E si tratta di un giudizio di giustificazione, non di terrore, non di vendetta, perché ovviamente si contempla la possibilità della condanna, ma solo Dio ha il metro per giudicare l'uomo. E ricordiamo cosa dice il Vangelo secondo Matteo, capitolo 7, versetto 1: non giudicate per non essere giudicati. Solo Dio giudica. 7. È un giudizio su tutto l'uomo, cioè sulla vita totale, integrale. Non ci saranno delle cose che saranno nascoste, anche se a volte siamo tentati quando andiamo a confessarci di fare così. In realtà, di fronte al Signore, tutto è manifesto. Il giudizio di Dio in Cristo sarà pienamente umano, perché Cristo, uomo Dio, è passato per la morte, conosce nell'intimo la natura umana e quindi è Lui che giudica l'uomo. E il giudizio finale di Cristo dice dunque la nostra speranza ed è un motivo di gioia. Abbiamo un profondo desiderio di giustizia, è giusto che chi ha fatto il bene venga resuscitato e la sua persona venga premiata con la beatitudine eterna. E questo desiderio di giustizia è quello che viene soddisfatto proprio nel giudizio finale. Ecco, io mi fermerei qui, cari amici, con quanto esposto, una conversazione penso intensa, ma al tempo stesso abbastanza semplice. E lasciamo una piccola pausa musicale e poi, se c'è l'occasione, alcune vostre domande che vi chiedo come sempre brevi e in tema con quanto trattato. Pronto? Buonasera professore, sono Edoardo da Palermo. Buonasera. Innanzitutto la ringrazio, sono molto emozionato di parlare con lei, che ascolto sempre molto volentieri. Poi volevo Grazie a Dio. dire, grazie a Radio Maria soprattutto, volevo chiederle una sua riflessione su un pensiero, su un'affermazione che faceva Padre Pio, il quale diceva che Gesù gli aveva confidato che nessuno si sarebbe perso se non l'avesse espressamente voluto, così diceva Padre Pio di aver sentito da Gesù. L'ascolto per radio. Grazie per questa domanda molto, molto puntuale, molto opportuna, perché Gesù ribadisce il valore della libertà dell'individuo. Certo che il giudizio viene pronunciato da Dio in Cristo Gesù, vero Dio e vero uomo, ma se non ci si volesse perdere, non ci si perderebbe. Badate bene, questo non significa, cari amici, che uno debba voler esplicitamente l'inferno. Come poi l'inferno è, perché, come diceva Santa Faustina Kowalska, vedendo l'inferno, la sorpresa fu che la maggior parte di quelli che là si trovavano non credevano all'inferno. Quindi uno non può, per dire, essere condannato se vuole esattamente quella condizione lì, ma il volere è riferito alla scelta che si può compiere pienamente, consapevolmente in questa vita, cioè rifiutare Dio. Io posso anche ignorare nella pienezza, nella chiarezza, in maniera esaustiva, le conseguenze terribili di questo rifiuto radicale, dell'impenitenza finale, della ostinazione del peccato, ma se scelgo di rifiutare Dio, ecco che a quel punto mi condanno da solo. Benché poi questo, come si può dire, giudizio di condanna debba essere pronunciato dall'unico che può giudicare, che è proprio Dio. Mi piace ricordare brevissimamente un'immagine che Gloria Polo riporta dalla sua esperienza mistica alle porte del cielo e dell'inferno, quando dice che dopo la morte ogni anima viene accolta dalle mani di Gesù, che la pone sul proprio cuore, perché quest'anima conosca l'amore che l'attendeva dall'eternità, e le anime che hanno scelto la dannazione vengono lasciate andare da Gesù, perse nell'inferno, ma con un dolore inimmaginabile. Un'altra conferma di come ci si perde se si vuole veramente. Anche la regina della pace di Medjugorje ha detto a Visca, a Mirjana, presentando loro le realtà escatologiche, all'inferno va chi ci vuole andare. Pronto? Pronto? Pronto, Buonasera. buonasera. Buonasera, sono Giovanni da Verona, già avevo chiamato altre Benvenuto. volte per la sua trasmissione. Ancora grazie, come anche il primo telespettatore ha detto, per la sua chiarezza e per sempre le sue catechesi. E volevo raccontare e anche chiedere una riflessione su un aneddoto che, una grazia, un miracolo posso dire, che è accaduto qui in famiglia nostra, l'ho già raccontato anche in un'altra trasmissione Radio Maria, e ossia quella della nascita al cielo di mio papà proprio il 16 scorso. E racconto solo questa cosa per un'altra realtà che mi dispiace molto, ossia, cioè, io ho avuto un incontro provvidenziale, mi stavo andando a confessare, con un sacerdote, padre carmelitano Scalzo, il quale, lo stesso sacerdote, proprio il sabato santo è venuto a casa, mio papà non si pensava che potesse essere chiamato al cielo da lì a poco, a somministrargli gli oli santi, l'estrema unzione appunto, la confessione e la Santa Eucaristia. Da lì, proprio il 16, appunto, come dicevo, di questo qualche giorno fa, è stato chiamato al cielo, esattamente 13 giorni dopo aver ricevuto i sacramenti. Allora, questa concomitanza di eventi, l'incontro col sacerdote, il 16, che era, guarda caso, la memoria di Santa Bernadetta, 13 giorni dopo, quando Maria appariva ogni 13 del mese ai pastori di Fatima. Tante volte si dicono, ah, sono coincidenze, però io credo che, poiché in famiglia abbiamo pregato sempre perché potesse accadere proprio esattamente come è accaduto, io penso che siano delle concretizzazioni, delle convalide che stesso Dio ti permette nella nostra piccolezza di ricevere come accreditamento per l'anima che è salva, che poi sia in purgatorio o in paradiso, il punto è che Dio ha dato una conferma. Grazie Giovanni per questo tuo intervento e anzitutto ti esprimo la mia vicinanza nella preghiera e nell'affetto per il papà e penso che sia una bellissima testimonianza che conforta quanti sono all'ascolto e anzitutto ci dice che al di là di quello che possiamo conoscere sulla realtà di questo giudizio è fondamentale saper riconoscere la mano di Dio che accompagna coloro che si avvicinano al momento più importante della vita, che è proprio quello di presentarsi dinanzi al Signore per poter ricevere la ricompensa della vita vissuta nella fede e nell'amore di Dio. Quindi approfitto salutandovi al termine di questa conversazione per rinnovare l'invito alla preghiera per il Santo Padre, per tutti i sacerdoti, i pastori della Chiesa, ma questa sera in modo particolare anche per le anime del Purgatorio. Un cordiale saluto a tutti da parte di Diego Manetti. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.